amaro, aspro e dolente. Un tempo, come sai, contra fortuna, sì che null'altra mai, sotto la luna, di lei si dolse con voler più ardente, pur del suo cieco errore, l'alma si pente. Avanti, arredi.